Se sei ciò che sei, è solo grazie a me. Adatto ad ogni stile, hardcore è presente. Ogni tuo discorso fa rifiuto nell'inferno. Odi gli altri stili perché tu non hai talento. Passo col rosso, zero question. Welcome in the red of your laceration. Non puoi comprendere, dovresti arrenderti. Prima o poi non ci saranno gli altri a difenderti. Dall'hardcore all'underground, entro dentro le tue orecchie. So di essere il migliore, ciò che fai non serve a niente. Posso farti da tutor in qualsiasi campo. La stupidità è la tua unica amica di banco. La coglionaggine affianca a te troppo spesso. Non vantarti, non scopri, quindi scopri cos'è il sesso. Poi magari tu con me fai un bel passo indietro, anche se culo ne poco, guardati da dietro. Contro una tipa figa non è Fabri Fibra. Incontro un tipo figo non è figo grido. Incontro un amico e grido non è un amico. Incontro un'amica e mica è un'amica. È la musica dance, la musica dance. È la musica dance, la musica dance. Sotto una quercia, vice la vita è stupenda, buona cosa.